se lo sentono, diciamo, di QRM. C'è la propagazione a 1000, nonostante sia andato a baracchino, e c'è la propagazione molto molto alta. È entrato anche Antonio Franchetto già. E niente, no, questo me l'ha regalato Luigi Vulcano, il cane più 3, quello che c'avevo io, ma mi ha dato anche il Sadelta. Mi ha dato anche il Sadelta. Comunque si assomigliano molto le modulazioni tra questo e Sadelta, non c'è problema. Va molto bene, però questo c'è il capo un po' più lungo e quindi gliel'ho passato dietro e sto usando questo. Va molto bene, beh, la Fayette HB23 è mitica rispetto al Tokai, aveva un modulatore, poi questo è relay, quindi c'è la commutazione relay, un'altra cosa. No, ma io l'ho provato anche col microfono normale e ti dico che va veramente bene, Gianni. Non c'è nessun problema. Questo me l'aveva regalato Luigi perché l'ho visto e quindi mi ha detto no, figurati a te, e me l'ha regalato, l'ho pulito, oggi gli ho attaccato al 3N+3, eccolo qua in funzione, da 5 watt pieni, non prende splatter, non sento niente, un bel QRM, una bella ricezione, alla grande già, e quindi lo usiamo, dai, lo usiamo, visto che abbiamo anche il microfono da tavolo, lo usiamo. Avanti Antonio Falchetto, buonasera, ben ascoltato, cambio. Positivo, sì, ben fitti. In effetti è dopo K dell'Orgio, lei già ne ha ritratto K dell'Orgio. E mi dispiace perché lo sento, a un anno lo sento mezzo a QRM, mi dispiace, comunque non fa niente. Riprendi Gianni Caprino. Ciao Antonio, mi rientrato. Ciao, il numero lì lo volevo portare perché c'è qualche cosa come l'affermo che non va sul microfono. La capsula non c'è nulla perché esce, però non esce come dovrebbe uscire, è per far vedere a Massimiliano. E poi lo piatterò sul cosa, perché come... Ok Gianni, non ti trattengo, un abbraccio, a presto, ciao, alle prossime. ci ho fatto molto piacere già mi ascoltare. Sarei approfittato a salutare anche Audanio, anche se lo sento bassino, ma quando vuole piacere, quando vi fa piacere noi siamo sul 10, non ci sono problemi. Caparoggio, buona carica Gianni, buon tutto, saluto a te, quella a familiare e riprendi, aspettiamo i tuoi saluti. Passato appunto il capo del tranne più tre, però questo è piace la modulazione, mi piace la ricezione e va bene. L'ho messa a un angolino, mi sposto con la sedia, intanto alle ruote, la scrivania è già grande e la uso, non c'è problema. Questa ventola sì, del 7-0-6, ho tutto acceso, sono al buio, è uno spettacolo vedere tutte queste radio accese. L'unica con lo smitter piccolino è la KB23, ma veramente, guarda, eccezionale. No, adesso vado domani mattina, come mi libero, passo lì al biciclo Garibaldi e prendo una spugnetta per il Salerta. Gliela prendo nuova, quella che ti ho dato, tienila. Gliela prendo nuova, un pochino più grandetta, e quella lì te la rotta, e così gliela metti direttamente all'M500. Ma puoi usare anche quella che ti ho dato, ma quella lì è proprio sua e quindi rimane più aderente alla capsula, quella antisoffio. Ok, va bene. Niente, cosa ti devo dire? Cuffie micidiale la radio. Ah, oh, micidiale veramente. È bellissima, poi c'è quella modulazione con la tua voce. Sembra che stia parlando qua, attaccato a me, seduto a fianco a me, è una cosa allucinante, ma è proprio perfetta, chiara, senza disturbi, senza nulla. E anche il microfono è micidiale lo stesso, dai, lasciamo perdere anche il microfono, sta facendo la sua parte. No, ma hai visto anche lui getto col Salenta, va molto bene anche il Salenta, eh? Va bene, nuovissimo, quello proprio è eccezionale, mi mancava alla collezione questo. Comunque lo proviamo col Mobi, con quello, eh. Adesso non so se c'ha le connessioni di questo, no, non ce l'ha, perché il 3 più 3 non andava bene sul Mobi, con vero tu? No, questo già lo sai, c'ha sempre 5 punte, ha sempre 5 punte questa, con l'adattatore magari si riesce, ma bisogna trovare le connessioni e compagnia bella, ma va bene così, dai, già va bene. E vabbè, comunque voglio tutte le soddisfazioni di provarlo, perché sono belle cose, dai. Sono belle cose, ma non sono ancora in forma con la voce, perché ho avuto, già lo sai, una settimana proprio a forza di antibiotici e tutto. Adesso pian pianino mi sto riprendendo. Come torna la voce un po' più squillante, senti come rulla questo microfono. Va molto bene, ce l'ho uno il Turner, è a uno. Ma poi il bello è che non ha il Mickey Gain, non ha niente, sta KB23. Ma spinge perché c'ha il modulatore RLI e quindi c'ha quelle due resistenze che permettono di aprire sicuramente il circuito ALC in modo eccezionale. Va molto bene, ok. Se non ripetiamo sempre le stesse cose, la gente che ascolta si annuisce. Ma una cosa veramente allucinante. Questa io l'ho avuta, te l'ho detto, l'ho comprata da Pinto Scarpa in via Cavour nel 1979, l'ho usata sino all'80, 82-83 mi pare, e poi l'ho venduta a Giampaolo RC2 assieme al Turner P2 da tavolo, ne era innamorato anche lui e gliel'avevo data un po' così, ma gliel'avevo data. E io poi ero passato alle radio superiori, quindi ai Kenwood eccetera eccetera, anche perché poi nel 90 mi ero iscritto alla sediale di Porto Torres, ho iniziato a sediare a fare, e poi nel 93 mi sono preso la patente, quindi i baracchini li ho praticamente abbandonati, ma come vedi e come hai visto già ne ho, quindi no, non è un problema, quando voglio usarli va bene così. Ok, va bene. E tu hai mandicato adesso? No, diciamo di no. E adesso da poco passerò una carichetta e poi già stiamo di nuovo in radio, diciamo, eh. E infatti anche io sto aspettando, quando è pronto andiamo a cenare e poi poi ci risentiamo qua nuovamente. Non c'è problema, non c'è problema. Va bene così. No, io, ma perché me l'ha fatto abbassare Luca, se non ce l'avevo a 1,5? Allora l'ho messo a 1. Ma mi sto ascoltando, è fantastica. Va bene. Poi hai visto col microfono normale, come spinge lo stesso. È proprio la radio che è fatta così, anche perché c'è quel relay, quel bottolo che tu senti, tum tum, lo sento anche io. È il relay che aggancia il PLL, capito? Sì, anche con il microfono palmare è ultima, un'ultima radio, veramente. È un peccato che sia solo 23 canali, però del resto, guarda, è omicidiale, è troppo bello. E lei arriva tu? Mi sarei preoccupato se avevo solo questa, ma intanto noi stiamo qua sul canale 10. Quindi qual è il problema? Quando ci vogliamo spostare, come tu mi sposto con l'altra, no? Con 440, 430, 140, 680, è il problema. Quello nuovo della Icon 7004 è bellissimo. Quello è un gioiello. C'è un display, l'hai visto? Un display grande, verde, verde. È bellissimo. Sì, sì, ma sono tutte belle le mani. Sì, sì, sì, no, guarda. Non è perché volevo... È una bellissima radio, una bella operazione. E fa piacere sentire una radio pulita, ma brutturosa, nel senso che quando la radio è sana, perfetta, è una modulazione tranquilla, fa molto molto piacere ascoltarla. Ma per fare una prova, va bene, visto ieri quando ero avanti ieri, ho provato la RAN 48 con per vedere se funzionava l'eco, c'era tutto a posto e niente. L'ho completamente disinserita, ho staccato anche l'alimentazione, non mi va, anche perché non si può usare a casa a fare del maburotto di Gesù Cristo, e quindi rimessa lì nuovamente da parte. Ma questa che c'è il microfono a tavolo, che intanto noi siamo a circuito chiuso qua sul canale 10, perché non usarla, va bene? Se poi ci dobbiamo spostare, comunque e passo con gli altri radio, ma è un piacere usare queste vecchie cose, capito? Anche perché il canale più 3 era fermo lì, anzi in più adesso c'è anche il Salenta, che c'è la batteria, tutto, bisogna usare anche quello. Aspettava un bip allucinante che si sa detto, ma ormai si può escludere, ragazzi. Come ti dice di Antonello, bili, bibi. È bello squillante, bello squillante. Cavolino. No, bella, bella, no, veramente dei signori microfoni, fa molto piacere ascoltare la modulazione di quelle apparate lì. Aspettina. Te l'aspettavi tu una cosa del genere, Luigi? No, non avevo dubbi che andasse bene, però anche Gianni ha sentito Bravo 2, Capri 2, cosa ha detto? Radio eccezionale veramente. Infatti c'è CP che la mia non funziona, sotto l'avrei fatta sentire, perché c'era anche lui tane più 3. Ma io adesso sono già in contatto con questo in Faenza. Gli ho mandato un'email che ancora non mi ha risposto, perché lui c'ha il più 2, il più 3, c'ha l'SBE come me, ce ne ha un bel microfono da tavola. E Luigi, siccome ha provato questo stamattina nella sua radio, in quella piccola che c'è su dove facciamo spesso le prove, è rimasto entusiasta, ma ha detto procurano anche a me che la diretta nel più 3. E quindi adesso mi metto in movimento con questo mio amico di radioamatore di Faenza, dove a volte mi manda alcune cose e glielo prendo uno, ma no, il tane più 3B, il tane più 3B non è originale, non serve a niente. Questa è una capsula ceramica originale e questo è di lusso microfono, già l'hai visto, lo blu, poi quello cromato, quindi adesso sento un po', se glielo trovo originale, glielo prendo a Luigi, glielo prendo e glielo do con tutto il cuore, perché veramente mi ha fatto un regalo allucinante, veramente, troppo bella sta radio. Sì. No, quello Luigi adesso merita una persona dopo. No, ha fatto un bellissimo regalo, non bello, bellissimo, bella radio, caspita. Ti ripeto, fa molto piacere ascoltarla perché è pulitissima, senza senza nessuna interferenza, nessuna cosa, ma bellissimo, veramente mi sembra che stia parlando con TV. Avanti. parla oggi, ma sicuramente era molto impegnato. Sai com'è, no, sono la squadra. E vabbè, comunque se gli sono un colpo di mano, ma sta fare uno squillo, viene, li prende, e non c'è problema. Silicone li mettiamo qua, non lo so, poi mi direi tu cosa fare. perché da lì quando prenderà, qua mi stava il problema dell'altra volta, non è il commutatore d'antenna, ma è l'umidità, come ha piovuto. Sì, sicuramente sì, lui. Sicuramente sì. Vabbè, ma quella lì non c'è problema, la facciamo. Una domenica mattina dobbiamo darci una mossa, perché poi inizia il tempo più brutto ed è un casino, però ce la facciamo, dai, non c'è problema. Ok. E adesso domani sera vediamo. Ha dato tempo brutto, questa può essere. Ha dato acqua. Tutto nuvoloso, acqua, ma può essere, perché ho già fatto troppo caldo. Non è. Il Ducato che si affuso non mi piace farlo da me. Non lo so. È brutto. Guarda, vabbè, non so se è il PC acceso. Guarda questa antenna, cosa abbiamo fatto. Questa Mantova 5. Antenna verticale multibanda HF. Comunque sembra una Mantova questa qua. Perché c'è? Perché ha 5 radiali. Abbiamo messo una scatola attaccata, là. Allucinante. Senti, che cazzo serve? Ma se la guardi su internet, la vedi come cosa hanno fatto. Una di quelle scatole che usano gli elettricisti. Quella lì, Lu, è un commutatore d'antenna. Cosa succede? Siccome l'antenna è a 5 bande, fai un unico cavo di discesa e lì dentro ci metti il commutatore automatico, dentro lì, dove commuta automaticamente ogni qualora tu cambi banda. Capito? Quella è un'antenna a 5 bande, che poi c'è anche la GP6, quella della Diamond, che non servono a niente. Se devo dire, non servono a niente quelle antenne. Costano una barca di soldi, non servono a niente. Ecco, non so per lui, siamo messo le cose, io prima chiedo, lei che tu lo sai, è bella cosa comunque, dai. Bella. Che un bel lavoro anche. Diciamo che è un po' così questa scatta, no? Vabbè, comunque. Va bene, vai Mauro, a riposo si sta a te. Come se ne aveva dimenticato, aveva cambiato il turno. E vabbè. Ci avevo messo la firma, via, magari. 5 ore di lavoro, la voglia. Ma so che è interessante guidare, perché devi fare le viuzze. Che giocata hai? Ma tu passi vicino a casa allora. Ma c'hai? Vedrai quando ti abitui già ti piace. Ok, ma non ho messo dentro la busta quella roba tua, così domani te ne la scendo. Capito? Stai sentendo tu lì da te, sì? Vabbè. Non perché infatti sono buchi, ma ho visto che arrivo a tutte le parti, quindi non c'è problema. Già va bene, già va bene. Falchetto. Pronti? Beh, ma niente, sì. Cavolo, ho già mangiato. Ok, riprendici anche Luca, beh. Ciao Luca, ciao Mauro, anche se non ti ascolto, Mauro. Mauro, vediamo sistemare tutte le cose, Mauro, e andate le pecorelle. Ciao Gabriello, ben sentito, ben associato. Ma tu, ben sentito, buonasera anche a te. Ma se la volta il pulino non vada adesso, è allucinante. No, un cazzo, non andrà più. Prova qua, strano però, è sempre andato questo cellulare. Vabbè, comunque te lo do, lo a caricare, se va, se lo ci lo butti, cosa vuoi ti dica? Non peccato, questo va bene per lavorare, a voglia. Non ci butta niente. Faccio perché tu l'hai rimasto tu, che c'era il mio collega, insomma vabbè ce lo scambiamo domani. La tradizione è una cannonata, si intende, micidiale. E adesso mi metto la scheda nello Start Up. Avevo anche pigliato tutti i rughis. Mi fa un buffoneccio. Va bene così, va bene, va bene. Ok. Mauro, te la sistemiamo tutto domani, vedrai. Al Marco ti senti Antonio, cazzo. Peccato, io ti ascolto molto bene, anche con questo baracchino ti ascolto una cannonata. Segnale quasi 9, dai, sì, tra l'8 e il 9 in mezzo a questo Smith, e non è molto affidabile, è più un segnalatore di modulazione che uno Smith, è piccolissimo, però 6 in mezzo, e la radio è 5 perfetta, peccato che non ti senta Antonio, che porca miseria, porca le pecorelle, ma ti giri da tu? Ammaggia le pecorelle. Ammaggia la pecoretta, eh. No, sistemiamo tutto domani, andiamo, ci mancherebbe. E comunque ho visto che abbiamo avuto anche problemi con Ussilo oggi, Claudio. Ma no, sempre da questa zona, quest'area, vabbè, lascia perdere l'uranio, stavo uscendo con un'antenna piccola, eccetera, però se uno c'ha l'antenna grande, da Ussilo qua arriva benissimo, però non ti credere che le puoi dare il segnale che le danno gli altri, perché c'è il questone qua di Monte Bianchino che ostacola parecchio qua, lo so da sempre, io c'ho un varco ma proprio in mezzo, passo bene per Nulvi, però Osilo è sempre stato un po' casino, e vabbè, ok, non c'è problema, l'importante è sentirsi, non fa niente, avanti Luca. Staccato il frontalino dalla radio qua, c'è anche un po' di polvere sopra, no. Via, per carità, io stavo scendendo di testa qua, stavo giocando al poker, no? Siccome intanto mi si blocca il mouse del portatile, non so come viene chiamato, ha un nome comunque, e non l'ho più, proprio si è inchiodato, boh. E praticamente nell'applicazione non mi appariva il simbolo, che si chiama dispositivo di puntamento. Allora, ho fatto entrare una persona a farmi mettere a posto, perché è più pratico di me, su queste cose qua. Niente, me l'ha rinsannato, non andava più, perché pensavo che dentro di quel colpo che gli ho dato che si era rotto. Stamattina, adesso l'accendo, vediamo un po' se riesco a metterlo a posto io, si è ripreso da solo. Beh, aspetta, stavo rispondendo Anna. Ma lì, bisogna vedere come mai si è inchiodato il mouse, non lo so, già io poco come l'intendo di computer, continuo a cercare a Franco ma non mi risponde più, marito. A proposito, guarda se riesci a entrare da Franco, glielo dici, ha detto Luca, se ti procuri la tastiera di questo, qui ce l'ho io, lui lo sa che il primo modello è tanto, mi serve la tastiera è il mouse suo, non so come si chiama Mauro, quello del portatile, ha un nome. Mi piace mettere il mouse esterno oppure il suo uso, si chiama mouse. Però no. Questa è la freccia, allora qui c'è il portatile, è vero? Ecco, tu il portatile cosa usi? Il mouse esterno o il mouse suo? Sto parlando del mouse esterno oppure il suo, però non si chiama il suo, non si chiama mouse, ha un altro nome, pensavo lo sapevi. E allora dunque mi sei incalato quello, vai, gli altri due colpettini e non andava. Avanti. Ehi, posso positiva, ho montato un po' per far girare il pubblico. Lugarie, come mi senti? Bene, mi ascolti bene? Mi ascolto bene. Positivo, Così mi riposo il braccio, capito? Almeno c'ho il mic manuale e così duriamo così. Dunque, Lugarie, come mi ascolti bene? Io, perfetto, te l'ho già detto, 5 perfette, non è amplificata, una modulazione normale, va più che bene. E capo, no, per riposarmi poi il braccio, più che il braccio, il dito, che stacca, stacca, stacca, già va bene, capo di noce. A me tutti i pesci li senti? Allora, io ci sono, cavoli, ci sono, come se ci sono. Luca è al PC. E quindi Mauro, tutto a posto? Non le mani niente, va bene. Ehi, deve se sta mangiando Mauro. No, sono qua, cazzo, sto facendo la radio. Cosa stai facendo? Prendo la radio, la LC. Il cartone vuole dire deposito. La partita? Adesso la stanno andando, allora non guarda iniziato. La vostra, amichevole. 2-2, noi siamo forti, noi una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo pareggiata, fino adesso non abbiamo perso neanche una. Segnato. I fratelli Piras. A chi sono? Azzo. Bravissimi. E ma eravamo con una squadra di prima categoria, né? Segna questione. Siamo fatti i complimenti, cioè, ma non ha detto cazzo, perché c'è cioè, uno squadrone. Ma è interessante una divisione di 18. Che di solito, sai com'è, no? Vediamo un po'. Non si sentiva più. Ah, a posto. Ok, là. Sono venuto a aprire, vanno un po' di pompa, ma sto cacchio di cosa, di... Ma, di pompalino, lascia a posto, quello lucido lucido. Sta attento che quel pompalino ha cristalli liquidi, se ci metti le dita nei cristalli liquidi ti attacchi a culo con la radio. Ci ho messo, mi sono passato un pezzo di coso qua, di carta, tipo la carta igienica di mare, là, morbida. Senza alcol, spero. Però c'è un sciocco pulizio d'alcol. Vabbè. Perché ricordi sempre, qualsiasi cosa, cristalli liquidi, mai, anche nel 140, capito? Tu vedi i numeri che sono in digitale, ma all'interno c'è cristalli liquidi. Se quello lo tocchi con le dita, o se lo metti alcol o altri prodotti, ti si azzera tutto, Non vedi più un cacchio. Tranquillo che non uso queste cose di musica assolutamente, né alcol né roba così, sono straccio, leggero, e perché sono smontato, vedi, e purtroppo la polvere entra, c'è una polvere in casa, tutti, ogni giorno per forza, poi io se puoi fare adesso domani non ho una polvere. No, fai bene, anche io faccio manutenzioni del genere, però bisogna sempre stare attenti perché con le radio così è un pericolo, e c'è che prendi l'Inter, prendi Anto, rilanciate per Mauro. Ehi, K, io posso rilanciare per Mauro, anche se non ascolta, avanti Mauro per Luca, Tore non ti ascolta e niente, dai, avanti Mauro. Dai Mauro, riprendi, che non ti sento, che tu non mi senti. Dopo i risultati, Mauro, Juve, Inter, spero che 3-0 per l'Inter, spero. Non risponde, riprendi Tore. Mauro, che è quello che ha messo qua sul casco? Te e lui. Arrivano per qua, 9, poco più di 9, dai. E ora sono un camionante da sicuramente ai che arriva a sparare un po' sparato, dai. Una spera, che non era una, ma se non mi ricordo. Qual era la nuova l'antenna? Parito, non c'è più. Una Sirio. Oh no, una, non mi ricordo. Ringo. Ma Sirio. La Ringo. Una REM, la REM, sì, la Ringo. Papà. C'è la spirale, sono le radiali. C'è in realtà quasi 5 metri o 5 metri, boh. È l'assidio, L'assidio, boh. Allora, tu hai male di tanzura, non li so, boh. L'assidio che è radiale. E l'assidio radiale non ne ha, ma c'è la stessa casa. Si conferma, sì, già la conosco. Già la conosco. Quella gioca la macchinetta, che mette 2 euro e scarica 3 euro, non è un giocatore qua. Ah vai, Ignazio, poi Ignazio lì da Ramo, quando metti 1 euro è troppo. Lui ha messo 1 euro e cazzo ne ha preso di più. Ne ha preso un bel doppio. Guarda, io ho vinto più di 200 euro. Perché mi ha detto, metta 50, così la vicina di 20 euro era 40. Diciamo che ha preso più di 4 tiri da 40 euro. E più di prima ne ha 20. Quanto 200 euro ha vinto? Io lo gioco, sì. Lo gioco. Ma è roba. Non è che gioca sempre lui. Però meglio io lo vedo. Gioca sempre un euro così. E poi se vince 5 euro ne toglie. Figurati tu, quanto è bravo giocante. Guarda, puoi fare anche mettendo un euro, te ne dà 20, te li scarichi, va bene. Ma manca, te ne sbatte un cazzo, continua e via. Se non la vola spacca. Ma con un euro 20 euro vanno bene, no, con un euro ne devi 3 euro. Sono schifo proprio. Ma è così rumorosa quella pentolina, no? Quale pentolina? Schiaccia. Perché ha attaccato il microfono alla radio, guarda adesso. Capito, adesso no. Ma il microfono c'è questo qua, è molto amplificato. E niente, è attaccato. Vai, riprendi tu. Facci sognare. Pompa, pompa, radio, radio, sole, pompa, radio. Pompa, radio. Ammirare questa radio. Ma va bene, la bella roba, più bella. Giovanni oggi non ha come inteso, non ho più sentito, prima si faceva sentire lì 20-27, però il canale alto comunque si è in banda, stava sempre lì, non si è più fatto sentire. Senti Nicolò, se un giorno tre qua, sarà continuato. Beh, se in caso lo trovi, c'è un numero anche di Giovanni, solo che non so che l'ho messo. Comunque se lo senti salutiamo la parte mia. Niente, dai, avanti. Dai, faccio bianco 5 minuti che dove appuntiamo la starra e la rimetto a posto. La parocci. Non lo so, vediamo se è in grado. Qui sta sempre a 35. Mi dico, mi stanno Antonio, gli ho detto. Se non avevo fatto, eravamo qui, mezzo e 75. Sta trattando? Uno squillo. Che ha girato di questi giorni, facevamo uno squillo, mi c'è qui. Mi ha stato trattando, oh, Tore. Stavo bene, più di metà macchina che vedo qua. No. Ma che radio è quella di Tore? Sì, come i 5735. Carità, ragazzi. Non sono mai andati lì come in 27. Preto libero c'era un baracchino, cazzo. Ma no, se fosse stato un 140 te l'avrei fatto fare adesso al momento. Avresti aperto. E vamos. Ma lì come qua. Puoi toccare quello che ti piace. Non andrà mai la radio come quella del Piemont. Per la 27 no. Non va. Me ne sono accorto, in FM blu va bene, in base, in AM, tra questo pezzo. Ma io ho 707, 4, ce ne ho 3 o 4 lì, ma non mi permetto neanche di commutare in AM perché fanno schifo. Ma con microfoni tipo SM20, l'SM20, poi l'altro, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, no, non vanno bene le M, sono radio un po' così, però in banda, cazzo, in banda sono il numero uno. Le FM va bene, come è, come è. Purtroppo, c'è quella la radio, io pensavo che c'era problemi, invece così da fare. No, è così, non va bene, capito? E così non va bene in. Non vanno bene lì come in 27. Sono solo ottime radio per fare attività amatoriale, FM e quando la terra. generale Naim in modo più assoluto. Come cerchi in modo più completo a viaggiare ai ratti. Ok. Avanti, Tore. Va, Antonio. E io, positivo. Ma non ce la capa di roggio. E allora. E così, troppo è così. Magari quella al bandarino non va bene, le altre bande vanno. La capa. Il Sinai me non va, ma è constatato già da diverso tempo. Quando la terra in FM sono eccezionali. È positivo. Parogero. È strano però che no, in AM non vadano. E non è che non vanno, no? Sono così come senti attore. Non vanno perché hanno il modulatore che non spinge come deve spingere per l'AM e poi è chiuso. Le modifiche non se ne possono fare e quindi trubi di usci. Se sollevi la modulazione strappa, se sollevi più di quei watt va in negativo, non ci sono modifiche che si possono fare. E è nata così e basta. È nata per una KF, è nato per fare KF anche. Mentre la keyboard si può fare una modifica, quando lo prendi chiuso, lo apri, dai una sistematina e i risultati ne metti là, mentre lì come non ci sono altre cose da fare, capito? Tutto lì. Vabbè. Vediamo se risponde Mauro. Mauro! Dimmi tutto! Ma la ragazza non dice che aiuto. No. Ho detto che stavo cambiando, regolando quello, dopo siccome sto accompagnando quell'amica di mia moglie, capito? Cominciare con le amiche di tua moglie. Adesso lo sento, ma ormai non è MM. Ya. Eccoci qua. Beh, Mauro. Adesso ti sento, finalmente. Porca miseria, orca o. Mannaggia le pecorelle. Ascolto, se ti viene bene, insomma, mettiti d'accordo con Claudio, se ce la facciamo, piantiamo con la domani. Sì, io non ci sono problemi, Mauro, te l'ho detto. Si può fare un salto sempre, Mauro, tempo permettendo, eh. Sì, vabbè che io ho guardato il meteo, perché me lo guardo via internet, e ha segnato un nuvoloso. Vabbè, se è nuvoloso non ce ne può fregare di meno, importante che non piova. Se piove se la prende, non è che, cioè, per abbiamo abbastanza per fare un leva. Fate. Riprendi là, mannaggia a me, a Mauro. Mi è stato preoccupato, vedi. Se ci metti un tempo di commutare la radio, forse vengo, grazie. Non volevo andare a segnare quanto era, perché un valore mi devo mettere gli occhiali in casa. Dimmi. Sì, che dove sei? 131. Perfetto. 9:26 quasi. Va bene. L'ho commutato e ho spento la KB23 e ho commutato qua alla 4:40, volevo vedere il segnale. Sì, che lo sento. Cazzo, allucinante. No, ma te c'è che non ti devi guidare. Cazzo, lascia il freno un po' perché non ti cascione e ti devi ritirare. Ma usa della putti, ma non c'è andare. Dove c'è Calutti? Dove la mangiare? Non usa Calutti. Dove la mangiare? Cazzo, io un po' perché non ti cascione e ti devi ritirare. Lascia il freno, non andare. Allora, ti preoccupa, ma nemmeno mi serve. Me lo metto nel pantalone di quelli marroni, poi metto la mondezza. Così non sto sempre scendendo. Quando passi più tu, te lo metto giù e ti ce lo porti. Ma io non la faccio io quella zona tua. No, Gattiano fa il giro dove gli capita, ottiene i cassoni o guida, quello che c'è da fare. Sì, mettami chi siete, passiti, ritiratemi a me. Ti regalo un contattore con loro. Sì, grazie. E tu mi regali uno di quei cassonetti? Che beh, certo. Ti siamo aperti la cantina, se no ti canta il buco a noi. Domani bisogna piazzare la tua antenna, che mi sono sulle spalle. Se no questo stato d'animo non gira in macchina per farsi sentire. Perché lì adesso si è organizzato, lui va bene, c'è scrivania, tutto. E così si siede, si rilassa e si fa due chiacchiere. Capito? Vediamo di fare il possibile domani, se il tempo lo permette, che non farà tempo brutto, un corpo. Mi viene anche Luca, che lui è leggero. Passo a prendere anche a Luca, prendo l'altra macchina, quella di mia moglie, così ci diamo tutte e tre. Se non uno si lascia sulla cappotta. No, vabbè, no, domani piazziamo tutto, eh. Se non piove, vediamo di piazzare tutto, eh. Ma si crema a te, che non è un problema, basta che io faccio un furbo. Di cosa? Dico, mi sono un crema a te, basta non fare il furbo. Ma dico, mi fai per fare il sacrificio, quindi tu? Quindi tu, scusa, mi sei venuto in gran battente, eh? Se non mi rifaro, mi fai la cassuetta. Se tu mi cicciavi, no? Sono la migliore, io. Ma io devo vedere, se c'è una mano non c'è problema, lo sai, clan, no? Non c'è problema. Sai, con uno è leggero, smettevole pure, se non si, cioè, mi sa fare che camminare. Ma tu mi sa che sappia camminare, perché fa anche il mulattone. I mulattoni sanno camminare smettevole. Però anche ci vuole una persona leggera, ecco. Perché a me ti vede il guatto di non vedere la bisogna via. Cate il palo, sì, vai, vai, che ci va il palo, no, ti ha fatto l'altro che non mi dà un pezzo. Ci vuole attenzione. Ci vuole attenzione. Dai, riprendi Mauro, aiuto, ama che ti ha corso. Allora. Ma dimmi Luca, raccontavi da tu. Tu diceva tu, stai fermo qua, ma ti ritrovo da te. Ma non va comunque e facciamo la diva. Adesso meno male, no, scusa, devo mettere il tirante, dall'altra parte quello più lungo che mi è rimasto, ma se me l'ha fatta apposta, metto il tirante dove ci sono delle gaffe uguali mie e sotto c'ho tre tegole, meno male, se no io me l'ho rovinato. Ah, in più erano. Allora, ma dall'altra parte del tetto, non è il tetto mio, il tetto che c'è più avanti di me, dai, di casa mia. Ah, KK, allora sei stato anche fortunato, eh. Eh sì, speriamo che quel tirato non libero da lì. Se ne attaccano nel tirato è un casino, mamma mia. Eh beh, certo, è un casino, sì. Ma non lo toccano, se no è un casino niente. E massimo devo salire un po' su per la situation del palo. Guarda, sai che con la macchina tua andiamo da Marcello, gli riprendiamo due paletti. Bisogna sapere la circonferenza del diametro di cui della mantova, qual è? Se prendo uno da 2 metri, uno da 3 metri, uno da 2 metri. Poi andiamo da Giulio, buchiamo, poi ce lo fa, saliamo due bulloni, due dadi e via, vai. La gioco è fatto. Così riusciamo a risparmiare qualcosina di su, se no questa droppo qui. Un pollice, un quarto. Innesto. Non prendere niente, io ne uno giù da Luigi. E dobbiamo approfittarne, dobbiamo fare qualcosa con la furgonetta, perché io penso che adesso mattina sono a Cagliari. pollice e mezzo a un pollice. Capito, è molto buono, grosso, tipo quello che ho io, va molto bene. Perciò, se è da salire, si sale. E ciccia. Ma no, prima che perdiamo, dove sei arrivato? Non ti vedi mai curettami. Ah, non mi fai mancuretta, non ti preoccupare. No, l'ho già lasciata, adesso niente. Sono a fianco all'ippodromo. Sono a casa Antonio, sì. Non si ti intende mai questa volta, Ma io ce ne intendo forte. Io mi senti bene, sì. A voglia. E niente, no, Claudio, ti stavo dicendo, ho guardato le previsioni, come stavo dicendo Antonio, sul meteo, in internet. E ha messo nuvoloso. E intanto lo sto dicendo poco fa, non ho visto su internet, no? Ha parlato canale 5, ha parlato sull'1, poi ha girato su una emittente privata, lo stesso in Sardegna temporale, tutte le nuvole a catinelle, capito? Ci sono le nuvole a pecorelle e acqua a catinelle, quindi a tu, tutti i ragazzi da domani ti volimo in capo, una due, una io. Senz'altro. Senz'altro posso dire sì, no, ma l'ha segnata l'acqua, l'ha segnata, è per quello che stavo dicendo a Mauro. È strano, però l'ha segnata, Ha messo il meteo.it, ha segnato un nuvoloso, e l'acqua, ma non ne ho visto. Positivo, positivo. Speriamo bene, Mauro, dai, almeno si piazza Sant'Elmo buonanotte, dai. Infatti, via. Niente, io me ne rientro, però dovevo andare a prendere mio figlio al bowling, invece mi ha detto che c'ha passaggio e quindi così me ne rientro e non aspetto a lui. Cappa Mauro, dai. Va bene, ti sento, ti posso parlare, quando ti sento bacia ciccia, dai. E beh, infatti, non si può fare nulla. Cappa noi. Ma che cosa, ma non ti sento bacia ciccia, che vuoi bacia ciccia? Pazienza, a me. A me non ci sono bacia ciccia, mi ribuggerò. Ma se bacia ciccia Mattellini, bravo lì della linea di sono. Io ho conosciuto. Vabbè, comunque, vediamo. Il problema sapete qual è? E se piove le tegole, si zuppanerà la prima città che asciutta, anche se no fai un casino vero. Ma tu mi chiedi, mi curi l'antenna a fianco a Mauro. A me sicuramente mi curi lo guardano, li giavi i saiuoli che ha cominciato. E ci facciamo anche cosa di buona curri. Minimo di Mauro. No, dai, adesso vediamo. Speriamo che non piove, dai. Che non piove, voglio dire. Se non piove già si può fare tutto. Tanto un attimo a fare due buchi e piazzare l'antenna, non ci vuole molto. Infatti mi organizzo col trapano quello grande che c'ho, non quello piccolo, quello grande elettrico, che con quello ha di prepotenza. Non mi raccomando, il trapano vuole buono, non mi dare quello là, è ancora per me di strucco. No, io c'ho quello grande elettrico, con quello si fanno per forza. Per questione, va, mi con la martello, che funziona a martello. E fa tutto quanto quello lì, è grande, dopo quando lo vedi. Scappano, se no, allora già ci si vede domani, dai, riprendi Claudio e fai girare. Chi si dà la palla, ma con un buco di Santa Volguru, guarda, chi riprende il padre. No, adesso quelli di supermercato, questi sono quelli di 4-4 soldi. Utilizzati da 14,4 a batterie. No, era buono il motore, però era un abitatore che non pensavamo che era forattino. Però mi quello invece che tu ci metti il mano in sagaccia. E qui ci vuole quello grosso, la forma. Se mi ha fatto lì, diceva, dammi quello, faccio prima, ci faccio i buchi e mettiamo la staffa. Perché tu, mi devo uscire la risa, che sparisce, ho detto, non mi ha fatto la risa a fare. No, non ci vuole quello grande, se lo dite, me lo porto quello mio con la valigetta. Uscire l'antemolo, entriamo dentro. Cisci, cazzo. Quando ho bucato qua per passare il tappo del modem, lui. Non mi ricordavo la tramezza questa. Infatti sono tramezzata fuori lì. Invece mi ha detto, ma che posso che la questa faccio prima. Tu vuoi la percussione? Le conunque, quattro volatini sono caduti. Ma non c'è la mano dall'altra parte. Se no mi ha campato tutto. Non ce l'ho fatta più, ho dovuto rifare tutto, riprendere tutto, ma tanto che ha portato anche un cellulare dentro il cielo armadio. Però nel topo della cabezzina ci vede a cipicchi. Porca miseria, ragazzi, è un tiro poco importante sul grosso. Non è potente. Ormai, facciamo positivo. Se domani il tempo ci permette, io mi... Tanto Luca si riposa. Quindi tu esci alle 5 a lavorare, proprio non ce ne sono. Facciamo un altro giorno, perché poi cambia l'orario, ce l'abbiamo in queste ore. Io verso le 5 passo a prendere la Luca. Alle 5.10, 5.15 siamo da attento. Batto una mossa, la fermo entra la lì, che mi ruola si tende lì. Tu hai il buono, lui ha Marco Peppino, e invece buon viaggio, vado a fare un'altra mezza. Io no, c'è problema, non ti preoccupare, io già sono puntuale. Caparova ce l'ho. Va bene, va bene. Riprendi Maurizio. Ehi, no, quel traparola è un felizzatti quello che ti ho dato l'altro giorno. Soltanto che... Non ho capito perché, vabbè, cemento armato, però se non ce la facevano, perché io l'ho usato un po' di volte e ha funzionato bene, ma non cemento armato. No, Mauro, quello bene per tutto, ma meno che per il cemento armato. Invece il cemento armato devi usare un trappano della percussione, capito? E il cemento armato non è che sia né volatino né blocchetto, è sempre cemento armato. Ma guarda che quello lì la fa la percussione. Quello lì non mi ricordo tanto di giù, secondo come lo sposti fa anche la percussione. Boh, io ho provato, no, nulla, nada e nada, non faceva nulla. E boh, quello ricontrollo, vabbè, ma non mi interessa, intanto c'è il grande. Ma adesso domani mattina mi organizzo, ma ne scendo la prunga grande, una va da Saturnino con il mio amico e niente, e così almeno ci saremo sulla corrente e facciamo i buchi. Ehi, ehi, ehi, fatto, fatto. Bene, va bene, va bene, riprenditore. Ma chi può trovare dove ti metti in salone l'antenna? Quel ragazzo, la Lem, invece c'è la battuta, questo sta modulando in macchina, adesso. Positivo. Posso stare in macchina? Che comunque qua, già andate bene. E dico che è un grande, e poi cosa non mette, sono esatti di quella espansione, quella che gira. Yeah. E la voglia vecchia. Io uso sempre quelle, la punta d'asta, e poi con le zanche. Sì, sì, no, ma sono ultimi tassilli, diciamo degli ultimi tassilli a espansione, capito? Vanno più che bene. Se non vuoi che voglio mai guardare il geomite. Ma poi non ci vuole mai Mauro, cazzo. Un asilo di Samur. Capito, Rocla. Ma che se non mi piace domani? Non lo so, ma anche se non c'è, mi ha detto non c'è problema, intanto mi ha dato niente, l'autorizzazione per salire e fare se c'era da aggiustare per salire da là. Ma non per quello che ho trovato una persona troppo in gamba. Ma se me la passa noi che non bravo, no, no, ma mai è brutto così, da per tutti i giorni. Sicuro che dice, cosa devi fare? Non parla anche la vai che mi ferma il culo. Veramente ci ha detto anche dove metterla, la mettete qua che fa troppo bene. Non ho in gamba quell'uomo, cazzo mi riluce, non è vero. In gamba, c'è anche una bella casetta, quella la massata che c'è, cazzo, bellissima. Su due lattino, mi avevo tappato tutti i chivi, boh, molto bello veramente. Tu vai, domani ne dici? Non credo giocare a poker. Dai, io chiudo perché... sento solo io e Luca, quindi sono già le 10, ma come tanti sono domani, i cassonetti ti mettono appresso. Ma me non mi metti appresso, c'è stato il cassonetto. Quindi non c'è problema. Ma io vorrei tra tre vento, già siamo qua. Ma Mauro, io ti saluto prima che tu entri dentro, se no non ti sento più. E va bene, dai, è tutto domani, tempo permettendo. KK Rogers, salutone a te, guerra familiare. K, cambio, basso, cambio. Dentro alla dritta. Mia. E quindi to. Prima dice Antonio, se fate il cambio, ti fa dare 4.40 e arriva alle 7.35. Non so se... tanto gli erano parlati, cioè come se sia bello, è l'uomo nuovo, ma come anche già poi è il male che non mi ha detto, ma un altro gli ho già letto il 440, poi mi avevano mandato col 706 che fanno, non è il K2 ma l'altro già da prendere, è provvisoriamente. Ah, sei sempre punti a capo, sei sempre punti a capo, 7-0-6 lo stesso. Non vanno. Io l'avevo provato, non va, quelli vanno molto bene, in banda laterale, in FM, ma le altre parti non vanno molto. Io ho un 140 e sto facendo allineare. Allineare bene, proprio nuovo. Quando è pronto lo provi se ti piace, io tanto ce li ho doppi di radio, capito? E 140 amico, ma te chi sono? 735, ho avuto 735 con lo merda, no? È una bella radiolina, non c'è un bel dubbio. Però va bene per le HF, per la M, no? Così puoi modulare come sei tu, ma non puoi spingere di più. Non è che sia bella però, c'ha tutto la chantiere, più bella della qua, come funziona il cappone. E lo so, quando c'è una M, non è nata per quello. Adesso dimmelo quando lo allini questo 140, lo dicono come se. Antonio, guarda 440, vediamo un po'. Perché c'è un periodo dice che lo va, meglio no, poi è mezzo deciso. Mariano e Antonio, non è paurosa, faccio quello per non fare un cacchio. Io non si può fare un cambio, vediamo. Non vendo niente, no? Capito? Non vendo niente. Tanto le come prezzi sono simili. Lira più, lira meno, mi interessa. No, io non ho qua, io ne ho le ricche Antonio. Ce ne ho dubbi però, capito? Ce li ho dubbi perché mi hanno imbarcato e tutti questi 140, tutti i cazzo telefonavano a me, te lo compri, lo sto dando, portamelo, io te lo compro, lo sto dando, portamelo, e alla fine me ne sono trovato 4. Fortunatamente 2 li ho venduti e 2 mi sono rimasti, ma sinceramente me li ho voluti tenere, se non vendo le radio io mi chiamano anche dal continente, cazzo, sembra che ce l'abbia sangue, perché sono radio nuove, perché le tengo bene, non ho problemi, capito? 4.30 io ho fatto un cambio lo stesso, avevo 2 4.40 nuovi, uno me lo sono tenuto e uno mi ha detto mi vale 4.40, ti ho 4.30 avanti, e ho fatto il collaboratore incorporato tutto, non sto lì a perché 4.30 è una bellissima radio, mi piace, tra fanculo c'è la T250 intanto automatico ed è collegato sulla T250, quindi ho sempre la collaboratore automatico inserito, non c'è problema, faccio sempre così, quando c'è un radio doppio le cambio, non sto lì a vendere. Con la fioccellina del campo, cioè, se può salire e fare il buco e piazzare il palo, non c'è problema, fare l'antenna. Ah, se piove il porto lo mette qua, e dove c'hai una baracqua. Ma sto scherzando, se piove la facciamo, cosa c'è? Se non piove, ma neanche si sta più vicino al cedeo, questo è un altro cazzo. Se non piove, si piazza, almeno anche Mauro è tranquillo a posto. Ha detto anche Giuseppe l'altro giorno, se per cui l'antenna, scherzo. Non te la vivo di chi si antenne, cazzo, grande te la vivo, grande te la vivo. Mini campioni, boomerang, di tutto va via. Ha giurato tutto, va a fanculo a me, cazzo. Ho fatto tutto, ma adesso ho imparato anche io a dare bel poco. Oppure dare gente che veramente medita. Se no io, il giorno di viaggio tirati. Sono qui, ho installato una bella mini grande a Mauro. No, non mi piace mai queste covracce. Il capo ce l'avevo. E via. Invece. La fa curando la ciugata di bazooka che stavamo in mezzo alla ringa, la ricommetto. Ho la grande lì, anche se la sarebbe già stato fatto il lavoro. Sì, in effetti sarebbe stato fatto dimenticato. E vabbè, dai, è stato un attimo a fare due furi per stare, portare sull'antenna, è poco. Curiamoci che non faccia tempo brutto, ma è tutto va bene, dai, non c'è problema. Si scende, si piatta e dice. Ma che dai, perché anche fastidio, cazzo, che uno in casa, dai, uno là, tu lo senti, Luca lo senti, io non lo sento, un altro lo senti. E va sì, radio, si deve sentire, e boom. Ma non facciamo in fretta perché io intanto vi assemblo l'antenna e tu Luca vi fate i tubi, i fori e mettete già il cavo già sopra, che problema c'è? Il cavo già sopra, si stacca quello lì e si attacca il cavo a quello, tanto lo mettiamo alla stessa altezza, quindi non c'è problema, capite? Mettiamo alla stessa altezza. Che la buio normalmente mi se c'è la staffa con la lingua, se c'è la staffa come quella col bazooka, si rende un grande amico il tubo, eh? Il tubo, ma quello sarà tenuto il tubo. Non me l'hai comprato, non mi ricordo, no, ma non mi hai capito. Se con la lingua, se non me la ricordo, c'è la staffa, a colare che si entra dentro il tubo. Ne muovo mi sono bazooka e la lingua si rende un grande amico il tubo, ne muovo a manco sapere. No. Al tubo dell'antenna? No, è che prima tutti. Oh, se è leggera si può fare. È leggerissima con l'antenna in alluminio, è un tubo unico, e 2 metri di tubo sono una spirale, cioè. È 4 metri e qualcosa, 4,20 mi sembra 5,20. No, 4,20, è stato 5,20. 4,20, aiuto. Ma benissimo. C'è la buona fare l'antenna, cioè, non avevi più bicchieri. Cazzo non fa l'antenna guai. Se ci fa l'antenna siamo molto a Mauro. Chi? Lo è del minimo. Che c'è Mauro? 5,50 con l'antenna. E cazzo. Allora bisogna mettere il palo. Lo stavo dicendo se ce l'aveva al collare. Come quella là, no? La mettevamo dentro dove c'è bazooka. No, se 5,50 bisogna mettere il palo suo. Se c'è già l'età. Di 50, è come ci ho detto Mauro. No, no, no, ma lo fa, lo possiamo mettere, lo vado, lo possiamo mettere, no. L'età, lo possiamo mettere, lo vado, lo possiamo mettere. Cinque mm, cazzo per il baracchino, se appena. No, ma comunque non credo, perché la trasformatoria a Torino, dottore. La trasformatoria a Torino è... cioè gli ha trasformato, no, fanculo. Lui era lì da Torino e me l'ha passato il telefono. E appunto, stavo con la mamma, era tutto lì. Ma la lontana per la 27 che vada bene, insomma, perché quella duca che gli ho dato non serve a niente. Cioè, non so, un'antenna un po' così, sì, ma lo arriverà. Niente, ma vabbè, allora trovo un'alternativa, le do la ringo che ce l'ho pronta e vabbè. Fatto detto, ma quella grande che non c'era via, ma è così. Ma vabbè, una è quella e tutta l'attrezzatura che ci vuole per piazzarla. Mi ha dato tutto. Ci ha parlato con me, ci ha capito che... No, stavo parlando con la 27. Ma no, provatela, ma le volte, perché la vengo. Se vuole la 60 è quella. Cosa la faccio? Oh, ma dove la faccio niente? Ho preso la radio di telefono, c'è un'altra cosa che non c'è. maniera, ragazzi. Dagli ci trovi il signor rilevatore. Che attore, per uno di bicicletta. Ma non mi sono di guidare a pochi di via. Sì, ho variato il corso di bicicletta. Ma dovrebbe andare a te. La qua è stato un'altra volta, io vedo, che sembrava una pittina per fare il bicicletta. Ma sono molti dei motori che fanno autocostruzione. Tu prendi quello che ha inventato la G5RV con la ricevuta l'antenna micidiale, con 10 euro, 20 euro di cavo, un po' di quel tubo in plastica, lo fuori, fa la scalettina e c'è un'antenna 5 bande, capito? Un 20 euro. Poi l'ha inventata e la compravo tutti. Io ce l'ho sul tetto micidiale. Senti tutto, parli con tutti, poca spesa e via. Usa anche chi va poi direttive, hanno drumi da rotti. È nata il Gabriccuria, ma ti vedo da riccio. Vai, non devo, me frega un cazzo. Devo dormire io la notte, ma mi sta fatta le antenne. Io ho messo le verticali, quello che avevo sempre, il dipolo dei 6 metri, 50 mega, e poi c'ho 10, 20, 40, 80, basta. Finito, ma ci stiamo attraverso del B2 antenne. Ho regalato la direttiva io, a Franco Delta 1. Invece mia passiva ci ha venduto la direttiva più tutti di radio. Vai mettere a mano, vai. Vabbè, e che ci devi fare? Pazienza. Saluto e meno buona annata. non ridere sì. Direzione generale, sono fermati assieme, sono passati la... appeso. Mai ci tardi, io minimo le 9 devo partire, 9:30, ci ho abituato a curio. Capito? E così ci siamo fermati da peso lì a ringare monastiri. Voleva detto di c'è un bel cosa a 2 lire. Avessi trovato qualche stronzata. SM20, 2 SM20, non c'è problema. Non c'è problema, se no faccio la L e ci c'è. Una fottenuta. Vediamo un po' come sistemare. Se cambio, stacco tutto da qui, mi sposto leggermente di un metro e faccio la L, faccio aggiungere l'altra scrivania L, in modo che ho tutto sotto controllo, senza girarmi, capito, di spalle. Ma la prova la terra lì. Perché non mi rispondi, cazzo? Mauro! Ti voglio visto segnare, sei più basso, l'MS200 pompa di più. Ehi, io sono qua. Ascolta, ma è Antonio la vuole da signori? Oh, sono pronto su di te, nonna. Cosa non lo so. E lo visto. Anzi, la vita perché molto non fare il mio amico anche se sono trovati lì, poi non lo so del resto va a fare vedere l'apparato, abbiamo andato in macchina, tanto il telefono e mi piace a farlo entrare, non ci siete in loco, ci muovo due di loco. Sì, infatti che se tu lo sento poco in VNU, almeno qua può entrare, che sono quelli dei gradi, no? Ma non mi interessa di quello di come gli altri. Ogni tanto mi attaccano, lo vado e mi sento, quasi sempre 27, mentre mai V, una che no, me la fatti nulla. A me piace fare due chiacchiere qua e continuo così, cosa me ne frega. Ha spiegato che stava prendendo una paglia magnetica grossa, no, quelle più grosse per mettere sopra le lanterne della macchina. Dovrebbe arrivare adesso, in modo da avere che si farà sentire. Tutti, buonanotte, a domani, dammi conferma nuova e poi